luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Alessandro, sei pronto? Prontissimo. Uno, due, tre. Allora ragazzi. No dai, vabbè, ma questi sketch da scuola. Allora cominciamo media. Così, cominciamo così, perché ci hanno detto che non si comincia dicendo allora ragazzi. E quindi quando ci dicono di non fare una cosa, non bisogna dire ai bambini non fare così, perché i bambini se no la rifanno. Cioè tu vuoi dirmi che quando tua mamma ti ha detto non mettere le dita dentro alla presa mi sono leccato le dita prima, così ero sicuro dentro di prendere la scossa. Tra l'altro Riccardo, sta roba delle dita, le dita nella presa io sì. Non l'ho mai capita, perché la presa elettrica è veramente sì. Piccola, che dita hai? Sei molto piccolo, il lillipuziano riesce a infilarle dentro. Te lo dicono quando hai 2 anni, cioè non è che te lo dicono adesso. Sono famosissimi i bambini lillipuziani su questo pianeta, ma soprattutto a Verona pienissimo. Allora ragazzi, di cosa parliamo oggi? Abbiamo detto insieme. Esatto. Parliamo di un nuovo luogo comune, siamo il programma dei luoghi comuni, quindi facciamo questo. Il mattino ha l'oro in bocca. No, però ci sei vicino, sono le 22:30 di sabato sera, un po' difficile. Ma no, guarda Riccardo, sono le 11:46, siamo a Vicenza Oro, è un'esterna, creiamo, non fare confusione. Finta di essere in radio. Allora, il luogo comune di oggi è: non è tutto oro quello che luccica, ovvero apparire forse è meglio che essere, oppure apparenza versus sostanza. Oppure apparenza, cioè, versus sostanza. Quando tu mi dici non è tutto oro quello che luccica, mi viene in mente che attenzione, se vedete qualcosa di bellissimo, probabilmente nasconde una magagna. Non giudicare dalle apparenze? Esattamente. Questo tipo quando compri casa, te la imbiancano, tutta bella, tutto a posto, poi entra, cioè tu fa, cos'è quella macchia là nell'angolo? Esatto. Che esce una settimana dopo. Ti ritrovi le tubature rotte. Chiaro, ti ritrovi che il soffitto non ha il cappotto, sì. E non so, perde. Hai una spesa infinita di soldi. Per, lo puoi fare per gli oggetti, per le persone. Ecco, per sì. Le persone. Guarda, io vengo da Verona. Verona è la patria di Lombroso. E Lombroso, ahimè, ci ha insomma, beh, un po' fatto violentato il cervello. Cosa, esatto. No? Perché secondo dati antropometrici, sì. Se una persona ha il cranio grosso, il naso grosso, la mente prominente, così tipo che me cos'è? Stesso, tu sei sì? Neandertaliano, per esempio. No? Quindi, sei molto neandertaliano. Sì, esatto. Dovrei esprimermi in uga uga, tipo una cosa di non questo non è che genere. Fai molto diversamente da così, no, però vabbè, andiamo avanti. Beppe, sì, è vero, Lombroso tirava in ballo, non so, i lineamenti affilati sì. Del viso, sì. Quindi una persona furba, un ladro, un assassino, bravissimo. Quindi per Lombroso Longoni sarebbe stato un ebreo con questo naso, probabilmente. Sì, no, esatto. No, chiedo, No, ha un naso molto prominente, ma parliamo ovviamente di apparenze, perché poi quello che ci viene criticato nell'anno 2020, nel 2020, è che siamo la società dell'apparire, no? Non so, tutti quelli che vanno in televisione, le dursate, c'è no, posta per te. No, forum, per esempio, tutto apparire, sono tutte sono persone. Tutti attori, ma si può dire che sono tutti attori. Ma sì, sai che una volta facevo un corso di i primi corsi di teatro che facevo, sì, a un certo punto accendo la televisione, c'era sto mio amico Vincenzo, che era un collega tuo. Sì, cioè, e lì crollò mia nonna, perché io stavo guardando la televisione e facevo, nonna, non vorrei dirtelo, ma questo qua che sta facendo è Vincenzo. Cioè faceva un collega. Seminario di teatro con me. Quindi... Scusa, e lei? Cosa e lei fa? È crollata, mia nonna è crollata. Scusami Beppe, ma tu non andresti a fare l'attore a Forum? Io non andrei a fare la tour a Forum. Tra l'altro, quanto pagano? Pagano bene. No, poi avevo chiamato Vincenzo. Lasciamo perdere. Ci arriva una querela da Forum. Però la cosa che volevo chiedere a Beppe, che è uomo di spettacolo, uomo che è persona che approfondisce le cose, no? Sì. Ma questo luogo comune non è tutt'oro quello che luccica. Che origine ha? Allora, non so che origine abbia. Sicuramente Shakespeare, nel Mercante di Venezia, utilizza questa metafora. Cioè, Porzia, che ha dei pretendenti che cercano di andare, no? Vanno a conquistare a questa Porzia, sì, a sedurla. Lei propone 3 scrigni, il sì. Primo in oro, il secondo in argento, il terzo in piombo. Spoiler, vabbè, se non avete letto Shakespeare avete avuto 400 anni, sono cazzi vostri, scusate. Ma lo spoiler è che Porzia a un certo punto mette diciamo il premio all'interno di quello di piombo. Quindi certo. Bassanio, che avrà il coraggio di beccarsi il piombo, alla fine si becca pure Porzia. Quindi evidentemente Porzia voleva premiare quello che sceglieva la soluzione più umile. Sì, non c'è qui l'oro, no? Quindi l'apparenza inganna sostanzialmente. L'apparenza ingannava anche Shakespeare. Oscar Wilde diceva in merito, sempre per diciamo ribaltare il punto di vista, sì. Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze, quindi l'apparenza è l'essere. Secondo lui quindi era importante apparire. Assolutamente. Che tra sì. L'altro questa cosa mi fa venire in mente, effettivamente noi siamo animali innanzitutto, siamo Homo sapiens e usiamo gli occhi e il mondo lo conosciamo attraverso gli occhi. Chiaro. Ed è inevitabile che se noi vediamo qualcosa che ci fa paura, ci spaventa ed è la nostra reazione, quindi effettivamente l'apparenza ha la sua importanza. Come dice tua mamma, come te si vestite si tratta. Esattamente. Ad esempio oggi voi voi avete una ottima camicia bianca e una giacca, io invece sono molto informale con una maglietta. Pensavi di andare a OVS oggi, giusto? Esatto, quindi infatti, io posso essere giudicato in una maniera diversa rispetto a voi. Non infatti, il signore fuori che ci sta guardando non era d'accordo. Non si viene con la t-shirt a Vicenza Oro. È perfetto, dice, per Vicenza Oro. È apprezzato, perché allora dopo... è elegantissimo, devo dire. Il signore fuori ha un gessano. Però, una camicia, ecco, in un luogo come Vicenza Oro è accettata la mia t-shirt. Dopo glielo mandiamo al suo stand, così gli fa due orologi se li porta via. Lei ce lo regala un orologio, così in diretta radio. A lui dobbiamo chiedere al nostro ospite. Ok, allora dopo lo chiederemo. Allora, a proposito di apparenze, siamo la società dell'apparenza, siamo la società degli influencer. C'è stata una polemica in questi giorni proprio su quest'audio di Taylor Mega. Devo essere onesta, è psicologicamente molto più stressante. No, lei dice che è più stressante, più faticoso fare l'influencer, fare un servizio psicologicamente che non lavorare come lavora Jessica nella fattoria? Allora, se devo essere onesta, a livello fisico è chiaramente più difficile il lavoro della ragazza Jessica, però psicologicamente è molto più duro il mio lavoro. Cioè, è più faticoso fare l'influencer dal punto di vista intellettuale, mentale che la contadina. Questa è Taylor Mega fuori dal coro di Mauro Giordano. Cosa ti suscita questa frase, Riccardo? Intanto, contadini in ascolto, chiamateci. Esatto, mandateci un WhatsApp al 340-8303-758, anche quelli che sono fuori qua. Gli influencer si fanno un buscio, si può dire così, una più fatica. Dei contadini, una fatica. Allora, secondo me Taylor Mega dovrebbe, tra l'altro è di qui vicino perché è friulana, dovrebbe andare a zappare. No, lei viene da una famiglia di allevatori di ragazzi, mi prendo, come dire, lo sfortunato compito di difendere Taylor Mega. D'altronde, fare l'influencer è un lavoro. Ti svegli la mattina, ti devi truccare, ti devi mettere bene, devi farti le foto, devi farti la storia, devi farti il selfie, devi fare il post. Cioè, poi avrà anche un social media manager che la segue. Però è un lavoro, ragazzi. Certo, non è un lavoro faticoso come la nobile arte dell'agricoltura. Sì. Però è un lavoro anche quello. Allora, quindi... a proposito di lavori intellettuali, del pensare, abbiamo il primo ospite di oggi di Off Topic. Ovvero... No, non sto tagliando, certo. Alessandro Longoni. Non polemizzare, ma una volta che avevo fatto un pensiero. No, come hai ragione. Ma sto dicendo: una volta con questa trasmissione stronca i pensieri intelligenti. Ho difeso un influencer. Di solito si attaccano sempre. Vadano a lavorare, non fanno ma nulla. Ma vai a fare l'influencer allora, scusa. No, è troppo faticoso. Allora, abbiamo un influencer. Abbiamo un influencer, ragazzi, perché è un influencer della filosofia. Sì. Riccardo Del Ferro. Ciao, Riccardo. Ciao, è un piacere essere qua. Benvenuto Off Topic. Sicuri che non sia un luogo per il pensiero questo? Non lo so, adesso proveremo a sfatare. Sono la persona giusta a quel punto, sono la persona giusta. Perché tu cosa fai? Spiegacelo. Io mi occupo di filosofia, divulgazione, letteratura, cultura, però ovviamente... Non allevi tacchini? Non allevo tacchini, anzi ho studiato filosofia proprio per non dovermi mai avvicinare a un tacchino. Fammi vedere le mani, ai calli. Guarda che mani pulite, non si può dire. Una pressione un po'. Ti daresti alla zappa? Sui piedi? Molto spesso me la sono data la zappa sui piedi, però no, ho fatto filosofia proprio per non dover mai zappare. Scusa, ma la poesia di te in campagna, che ti leggi questi libri e poi zappi e ti fai le tue verdure? Sopravvivrei 4 giorni, non ti rendi conto, che il mio senso pratico è lo stesso di un tricheco, altro che zappe, i dentoni del tricheco, ecco che cosa mi contraddistingue. Cosa ne pensi degli influencer? Allora, penso che l'influencer in realtà sia molto meno importante dei vrang vrang. Voi sapete cos'è un vrang vrang? No, ti prego, su questo io ti prego, spiegaci. Vrang vrang è un'invenzione di un grande scrittore americano del Novecento, Kurt Vonnegut, il quale in un libro, Ghiaccio 9, l'autore di Mattatoio numero 5, ma in Ghiaccio 9 a un certo punto racconta del vrang vrang. Che cos'è il vrang vrang? Beh, c'è il narratore racconta di questo episodio in cui lui ospita a casa sua un poeta nichilista. Sì. Cioè, pensate, già poesia e nichilismo insieme. In una trasmissione come la nostra, tra l'altro. Peraltro. E lo ospita, e questo poeta vuole convincerlo della bontà del nichilismo. Lui un giorno va in viaggio, lascia l'appartamento a questo poeta. Quando torna, il poeta se n'è andato, ma gli ha distrutto casa. Ha scritto sui muri con le proprie feci. D'altronde, ha distrutto il frigorifero. È un nichilista, ok, giustamente. E allora il narratore dice: sapete, lui voleva fare l'influencer. Ovviamente Vonnegut non usa questa parola. Voleva convincermi del nichilismo, della bontà. Invece ha fatto l'esatto contrario. Quindi è un vrang vrang. Il vrang vrang è quel personaggio che cerca di influenzarci, ma suo malgrado, contro sua volontà, ci convince dell'esatto opposto. Ecco, sono convinto che in realtà il potere dei vrang vrang sia molto più forte degli influencer, perché se ci pensate, una buona parte delle nostre convinzioni religiose, politiche, sociali, economiche, noi le abbiamo sviluppate soprattutto stato perché qualcuno che parlava del contrario non ci piaceva. E ed era un vrang vrang. Che ha fatto un po' il vrang vrang. Però ha fatto un buon lavoro, come esatto, si dirà, ragazzi. Esatto, esatto. Cioè, quindi io, per esempio, diciamo l'hashtag a questo punto: vrang vrang, ma con la V doppia o con la V normale? V doppia rang. V doppia con la lineetta. Hashtag vrang vrang. Scusate, ma quello che in milanese sarebbe un barlafus. No, come potremmo tradurre? Però Vonnegut non poteva dire barlafus. Scusate, visto che ci siamo e abbiamo un altro ospite, lo introduciamo subito. È Umberto Verga. Ciao Umberto. Ciao ragazzi. Lui fa il commerciante. E non è un barlafus, non è un vrang vrang. In teoria non dovrei essere un brang brang, neanche un barlafus con il lavoro titolare di un celebre negozio. Abbiamo una serie di negozi a Milano, esatto, che commerciano storico oggi, a storici Milano, dagli anni 30, e siamo arrivati oggi alla quarta generazione. Esatto. Quindi il nonno tuo, il nonno faceva... mio era del Novecento, ho incominciato a fare un riparatore di orologi, quindi un negozio, un piccolo negozietto in via Tommaso. Tu sei un influencer nel tuo settore? La parola influencer mi sembra un po' giocata male adesso. Okay. Diciamo che siamo dei professionisti del settore. Cioè, che voi ci sapete fare meglio quelle cose. No, sì, proponiamo quello che il mercato reputiamo di andare a prendere sul mercato il meglio e lo consigliamo ai nostri clienti. Quindi li influenziamo, ma li influenziamo, certo, con un oggetto che ha una, un logica. Valore, una logica. Quindi sei un difensore della sostanza del vostro, io del vostro prodotto. Io sono sempre dell'idea che la sostanza vince sempre sull'apparenza. Sull'apparenza. Ecco, quando entra un cliente nel vostro negozio, voi lo giudicate per le apparenze? Allora, cioè, se entrasse Longoni esatto, stanno, ma questo qua vuole gli orecchini per la tipa, guarda questa maglietta. Hai fatto una domanda veramente interessante. Io, diciamo, sono da 3 anni che ho introdotto la quarta generazione, che sono i miei figli. Pertanto hanno bisogno di capire che cosa vuol dire stare dietro il banco all'interno di un negozio. No, all'apparenza non ti devi ingannare, assolutamente. Io ho avuto vicissitudini negli anni 80 appena incominciato, quando vedevo entrare all'interno del negozio magari persone che non erano vestite in giacca e cravatta, come siamo abituati a vedere una bella signora vestita come un tagliere, un uomo in giacca e cravatta. Spesso e volentieri mi capitava di trattarli con superficialità. Poi mi capitò invece un giorno con mio padre a fianco che mi disse: guarda che hai trattato quei signori che sono entrati in maniera superficiale, ricordati che qualsiasi persona che entra all'interno dell'azienda devi considerarlo come il tuo migliore cliente. E invece, scusami, ti è mai capitato uno che ti entra in giacca e cravatta e poi non ti paga l'orologio? Esatto. Ecco, quello è più facile. Che arriva fa, beh, si compra il completo, magari non so da Armani, è il motivo per arriva... forse non ha neanche comprato il completo. È pericoloso. Bravissimo, hai fatto una giusta definizione. È molto più pericoloso l'eccesso della normalità. Comunque, in quel caso dove io sbagliai, diciamo ormai 30 anni fa, erano due persone assolutamente normali, vestite in maniera molto modesta, che erano venuti il giovedì per informarsi sul prezzo di due orologi e il sabato sono passati a comprarli. Pertanto io da quel giorno lì avevo 22 anni, ho cambiato modo di interfacciarmi, ho preferito guardare più la sostanza delle persone che l'apparenza di come potevano entrare. Quindi l'abbigliamento è sicuramente una prima... L'abito non fa il monaco in questo caso, sì, cioè è un primo momento di approccio. Però dopo, però quanto poi si svela. È sempre complicato, certo, perché poi anche noi abbiamo anche noi dei dipendenti e come tale bisogna cercare di trovare un giusto filo d'ariano, un giusto concetto di base per capire quando entra un cliente come approcciarlo. Generalmente l'abito non fa il monaco, quindi qualsiasi persona che varca alla tua porta va trattato come se fosse il mio cliente. Quindi l'arroganza non deve essere parte del nostro bagaglio tecnico, assolutamente. Allora, canzone tedesca oggi, sì, oggi siamo... o olandese, no, penso sia tedesco, ma sono ignoranza totale. Riccardo, allora, essere e apparire, quando è che si è scardinato un po' questo, cioè quando è che uno ha avuto il sopravvento dell'altro? Perché nell'antica Grecia, adesso non per scomodare, però l'apparire era importante, la forma fisica, il modello, no? Il modello delle statue, quello che noi abbiamo tutti in testa. Ecco, quando è che si è invertito o reinvertito di nuovo? Beh, possiamo dire che almeno nella storia del pensiero filosofico un grande momento di cambio si è avuto con Kant. Prima di Kant, se ci pensate, la filosofia, ma non solo, la stessa cosa che ha detto il signor Verga qui, guardare la sostanza prima che all'apparire, ok? Quindi guardare ciò che va oltre il fenomeno in greco cioè. Significa ciò che ti si presenta davanti. Ecco, la filosofia fino a quel momento si era convinta che pensare significa togliere di mezzo le apparenze, i fenomeni, perché ingannano, e arrivare al nocciolo, la sostanza. Kant ha una grande intuizione, dice, no, piano, piano, perché c'è un problema. Noi abbiamo contatto solo con apparenze, sempre e comunque. Noi abbiamo contatto con ciò che i nostri sensi ci presentano di fronte. Cioè le ombre della caverna di Platone. Bravissimo, bravissimo. E Kant ha un'intuizione straordinaria. Dice, in realtà pensare non significa togliere di mezzo le apparenze per arrivare alla sostanza. Dobbiamo fare pace con il fatto che con la sostanza non avremo mai a che fare, non sappiamo che cos'è e se c'è. E quindi il pensiero è selezionare bene le apparenze, guardare i fenomeni e suddividerli fra i fenomeni che ci fanno male e i fenomeni che ci fanno bene. Cioè il fenomeno della superstizione è un apparire che ci danneggia perché ci distanzia dalla realtà e peggiora la nostra vita, mentre per esempio il tempo, dice Kant, che è evidentemente una percezione, ovvero una costruzione intellettuale che ci permette di relazionarci al mondo, è un'altra apparenza che però va preservata, perché senza il tempo noi non riusciremmo a funzionare. Il linguaggio è un altro apparire. Dove sta la sostanza del linguaggio? Provate a pensarci. Cosa significa parlare vero? Noi parlare vero? Parlare vero, ok? In realtà noi scegliamo delle parole sulla base dell'interlocutore, del contesto, ma non sappiamo mai veramente cosa significa parlare veramente, parlare autenticamente. Voglio dire, io ho fatto 10 anni di teatro, ancora oggi faccio teatro, e se c'è una cosa che ho imparato è che certo tu devi mirare a parlare nella maniera più onesta e autentica possibile, ma nel corso del tempo il tuo modo di parlare, ovvero il tuo modo di costruire apparenze, concetti, parole, idee, cambierà perché sarai tu a cambiare. Quindi non c'è mai il tuo vero parlare, c'è il tuo modo di parlare adesso, relazionandoti. E il linguaggio è un apparire che ci è utile, senza il quale non riusciremo mai a funzionare. È inutile che mi guardate, non ho un contraddittorio, ha ragione lui. Okay. Sono d'accordo con lui. No, sempre faccio teatro e cercavo di dire qualcosa che no, venendo no, qua a Vicenza, sì. Stavamo dicendo proprio questo: apparire è essere. Parlavamo appunto di cinema, di teatro, di attori. L'italiano medio dice: Checco Zalone ha fatto quella battuta lì in quel film, allora è pro immigrazione. Adesso parlo dell'apparire. Certo. E non capendo che lui stava semplicemente facendo un personaggio. Cioè, interpreta un ruolo. Poi quello che pensa è un altro conto, cioè è un'altra roba. Certo. Quindi proprio dobbiamo iniziare a distinguere probabilmente quello che siamo da quello che appariamo, ma non solo per gli attori. Sarebbe anche da segnalare al pubblico italiano che c'è un attore e poi il personaggio. Certo, assolutamente. Perché delle volte questa è la cosa che non c'è una sovrapposizione. Assolutamente. Io ti dico due cose in questo senso. Il primo è che per capire Zalone dovremmo leggerci Nietzsche. Nietzsche l'aveva capito perfettamente. Scomodiamo Nietzsche per Zalone. Scomodiamo Nietzsche per Checco Nietzsche. Scusatemi, Friedrich Nietzsche, Checco Nietzsche, ci siamo. Addirittura? Siamo arrivati a questo. Allora, Nietzsche era convinto che, esattamente come Kant, noi non abbiamo mai il contatto con la verità. Ok, la verità è un'invenzione, secondo Nietzsche. Cos'è che abbiamo in mano? Quindi luccica, noi diciamo. Possiamo dire sia una cosa che ci attira, che evolutivamente ci ha aiutato ad affrontare il mondo, ma poi non è una cosa reale. Anche la verità è un'apparenza per Nietzsche. Cos'è che abbiamo in mano? Abbiamo in mano le prospettive. Infatti Nietzsche è l'inventore del prospettivismo. L'unica cosa che possiamo fare è ampliare il nostro punto di vista sulla realtà, guardando a quel problema, che è transitorio sempre, da molti punti di vista. E allora lì possiamo essere inclusivi, riuscire a capire meglio anche il modo con cui gli altri vedono quella cosa, e quindi magari diminuire i conflitti e via dicendo. Ecco, scusa, a proposito di conflitti, perdonami, mi aggancio ad Umberto, perché noi prima abbiamo parlato dei clienti che entrano nel suo negozio, ma parliamo degli oggetti che ti vengono recapitati o cui tu devi fare una valutazione. E lo dico perché il paccotto, come si dice, esatto, il paccotto è sempre dietro l'angolo. Allora, mia nonna mi ha lasciato questo orologio ufficio. No, ma quanto vale? Tra l'altro volevo chiedervi se voi avete fuso le catenine della cresima della battesima. No, non l'ho ancora fatto. Però io ce l'ho ancora nel cassetto che c'è. Tu sei andato a un compro-oro? Ah, no, lei è ancora lì. No, è ancora lì. Ma mia mamma lo farà sicuramente. Le mie catenine di confessione a cresima sono evaporate. Io non so perché, ma credo sia un segno. Mamma, dove sono le... Scusami, cosa vuol dire evaporate? Probabilmente le catenine le vede filosoficamente. Esatto. Perché hanno un essere, un apparire anche le catenine. Esatto. O un essere o non sparire, ecco. Esatto. Scusatemi, usiamo le parole giuste. No, Umberto, dicevo, i paccotti, cioè cosa ti è capitato? Esistono con... paccotti, pacchettini, esiste un po' di tutto. Sì. Chiaro che... E il contrario anche. La più bella soddisfazione è quando avviene il contrario, perché il pacotto è sempre una delusione che dai a una persona. Certo, certo. Il contrario invece è un regalo, una gioia. Sono capitati in entrambi i casi. Ecco. C'è un caso particolare che ti viene in mente? Un caso particolare che mi viene in mente e mi rimane sempre a cuore, la storia di questo ragazzo, venne da noi circa una quindicina d'anni fa, mm-hmm, per portare a riparare un orologio, possiamo anche dire la marca, un Patek Philippe. Ma sì, un orologino così, prestigioso. No? Sì, quello che andremo a comprare dopo. Essendo bianco, non sapeva neanche che cosa avesse al polso, di colore bianco. Oh, sì. Credeva che non fosse in oro, in effetti non era in oro, era in acciaio, con un cronografo, mm-hmm, e lo portava quotidianamente per i suoi... Sì, lo usava per andare anche in piscina, cioè non lo trattava male. Fortuna, in piscina no, ma lo usava quotidianamente, quindi venne da noi per chiedere una riparazione. Una riparazione. Ed eventualmente una riparazione, perché voleva farlo funzionare meglio, lo ricordo del nonno. E quando si sedette, dico: ma mi scusi, lei lo usa quotidianamente? Dice: sì. Dico: ma sa che cos'ha il polso? E già lì uno inizia a sbiancare. No, inizia a avere abbastanza stupito della cosa, perché non pensava che nonno gli avesse potuto lasciare un orologio di pregio. Tra l'altro, parliamo 15 anni fa, quindi c'erano ancora le lire? No, 15 anni fa, gli euro. Amico mio, è entrato nel 2000-2001. Esatto. Lui vive nel 1913. Le lire erano già state abbandonate. Esatto. Nel momento in cui abbiamo incominciato a trattare per la riparazione, gli ho dato il valore dell'orologio e questo ragazzo veramente è sbiancato. Quant'era, scusa? Diciamocelo. È un orologio che poi è stato venduto a più di 350.000 euro. No, aspetta. Può esistere? No, fermi tutti. Esiste un orologio che vale come un appartamento in San Babila? Anche sì, più cari. No, è San Babila. Era un orologio molto, molto, molto raro. E lui, la reazione sua qual è stata? La reazione è stata... Minchia, avrà detto. Anche perché era reduce da una famiglia che purtroppo aveva avuto delle difficoltà economiche, quindi anche l'università se la stava pagando lavorando. Pazzesco. E quindi ha vinto il turista per sempre, sostanzialmente, per far sì che la sua carriera universitaria fosse molto più veloce, più dinamica e soprattutto molto più comoda. Ed è diventato poi un nostro cliente affezionato, perché poi ha avuto successo anche nella vita, e ha comprato miriade di oro. Se l'ha ricomprato poi? No, non è andato alla ricerca. È andato alla ricerca, però quella è stata una sensazione di aver fatto del bene. Poi chiaramente capita anche il rovescio della medaglia, quando arriva magari la persona che pensa di aver avuto in eredità. Guarda, c'ho questo io. E purtroppo invece li devi... Ma tu lì dire... cosa fai? Io lo vedo già, lui su me è generoso, gli allunga comunque un 50 euro. No, di lì è imbarazzante, ragazzi, non dovete essere nei nostri panni. Effettivamente ti trovi magari con persone che sono convinte di avere in mano dei grossi avere pezzi, bisogno di una certa quantità di denaro, e pensano invece di avere in casa un piccolo tesoretto, invece in realtà hanno un oggetto che non ha valore. O un pacco, valore un pacco, dai. E scommetto, la reazione del cliente è: vado da un altro, me lo faccio valutare. Lei non me lo sta valutando. No, è loro sempre di andare da un altro. Io consiglio sempre di avere un confronto, perché non siamo mica assolutamente gli unici tenutari della verità. Esatto. Anzi, la verità ha molti tenutari. Che è il modo migliore per gestire i clienti, se posso dire. Assolutamente. Non essere... come dire, tu dai il parere tuo professionale, pensi, e speri di aver fatto il tuo lavoro nella maniera migliore. In questo mi viene in mente Indiana Jones e l'ultima crociata, che tutti pensavano che il Sacro Graal fosse la coppa d'oro, infatti il nazista beve e muore, e invece giustamente, essendo Gesù figlio di Giuseppe... Ma ho fatto la citazione, sei una persona orribile. Ma volevo fare un gioco con Riccardo a questo punto. Allora, siccome le apparenze ingannano, io ho un problema la mattina quando mi vesto, ovvero sembro vestito bene tutto quanto, noi vediamo le persone qua fuori, ci sono persone in cravatta, bellissimo. Sì. Tra l'altro ha un bellissimo orologio al polso, quel signore, credo sia un Rolex. È un Rolex Submariner. No, non è GMT Master 2. Uno. È l'uno. Ma, sì, e ne so di orologi. Ma complimenti. Allora, cioè, ce lo dice a fine puntata. Che è chiaro. Ragazzi, non volevo. Allora, a un certo punto, io mi vesto puntualmente e mi becco la calza bucata. E so che qualcuno di voi c'ha la calza bucata. Tutti ce l'abbiamo. Tutti ce l'abbiamo. Però il punto è che mi capita sempre la seconda calza bucata. Quindi ho già messo la prima integra, metto la seconda e bucata. La legge di Murphy, una rottura di coglione, devi toglierle tutte e due, perché io le tolgo e ne rimetto di sane. Quindi il gioco è: ci togliamo le tutti le scarpe. Anche voi fuori, chi di noi, anche chi voi ha fuori, le scarpe e gente e fuori le calze bucate. Io ho un calzino, però dico già, signor Berga. No, no, Riccardo, vai, vai. Assolutamente. Per capire cosa facendo. Allora, io una. No, io una sana, allora, ce l'ho. Allora, l'altra ragazzi, no, è sana. Colpo di fortuna, ce le ho tutte e due sane. Scusa, questa è sana. Il buco, ce l'ho. Sì, non avvicinata troppo. C'è il buco. Attenzione, buco, aspetta, buco. aspetta. Entrambi c'è sane, ragazzi. Allora, Berga, anch'io. Entrambi sane. Tra l'altro, delle calze bellissime. Sono grazie. Blu con i pua verdi. Oh, meravigliosa. Anch'io, entrambe sane. Riccardo, entrambe sane. A righe, righe. Io ho rigorosamente righe. Longoni, miracolosamente sane. Però hai dei peli di cane sulle calze. Non so cosa sono. Sono di un tetto d'amianto, però le tue cioè non le buca neanche un colpo di aspetta, pistola. Però attenzione, perché c'è ovviamente Beppe Salmetti che ha un buco. Eh sì, c'è il buchino. Faccio vedere, vediamo. Stanno cominciando a cedere. Comunque sì. Questo per dirvi appunto che l'apparenza inganna, anche quelli che sono vestiti meglio diciamo, potrebbero nascondere delle però scusate, tu sei lì la mattina, ti metti le calze, vedi che c'ha il buco, cosa fai? Le metti un'ultima volta e poi le butti via. Esatto. No, no, no. Vogliamo parlare, c'è anche Verga farà così. Assolutamente, sempre. Vogliamo parlare delle mutande? No. Perché il problema vero quello non è il buco nelle mutande, esatto. È meglio soprassedere. Allora, se anche voi ascoltatori avete le calze bucate e siete del partito le tengo anche se sono bucate, quindi Salmetti e Longoni, potete scriverci un WhatsApp. Cerco di buttarle, almeno quella la volta dopo. Un WhatsApp a 340-8303-758. Se invece siete del partito di Poli, Dal Ferro e Verga, potete scriverci comunque un WhatsApp e dirci insomma come, se siete dell'altro partito potete anche chiedere aiuto, anche cioè, chiedere nel senso, aiuto. C'è dell'aiuto per voi sicuramente. Allora, posso fare un appello finale? Certo. Seguiteci su YouTube, abbiamo un canale, le nostre puntate si possono anche vedere, quindi cliccate il tasto iscriviti e potete seguiteci. Vedere le calze bucate. Esatto. Mi ringraziamo i nostri ospiti. Di solito lasciamo i nostri ascoltatori con una perla, quindi ringrazio poi gli ascoltatori. Sì. Pensa già, Riccardo, ci devi lasciare con una frase e anche tu, Luigi, una mamma frase. Allora, ringraziamo intanto Rick Dufer, Riccardo Del Ferro, ricordiamo, ti troviamo su YouTube, giusto? Su YouTube, anche su Spotify. Sì, Spotify esatto, esatto, con i tuoi podcast. Umberto Verga, ti troviamo dove? In via Mazzini, dai miei negozi a Milano, e sulla mia Instagram Luigi Verga. Beh, meraviglioso. Oh, e ricordatevi che non è tutto fasullo ciò che appare. E ricordatevi che chi più spende meno spende. Oh, perfetto. Grazie. Mia. Ciao. Ciao a tutti. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.